Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 16 minuti, oggi parliamo di IRAP, ne parliamo in modo particolare perché il Sole 24 Ore presenta proprio oggi la guida a questa imposta e poi ne parleremo in maniera più approfondita, magari usciranno dalle nostre bocche anche dei commenti su questa, che non è un'imposta proprio gradita e neanche molto capita, ma che comunque c'è e presenta anche, diciamo, delle variazioni, mettiamole così, quest'anno, per cui bisogna capire bene alcuni aspetti. Prima però di fare questo e quindi di entrare nel vivo del nostro tema, velocemente sui mercati, perché le borse beneficiano a questo punto, possiamo dirlo, anche del colloquio appena cominciato tra Sarkozy e la Merkel, e qui parliamo sempre della crisi greca. Si spera oggi in una soluzione anche da parte dell'Europa di sostegno alla Grecia. Parigi guadagna lo 0,41%, Francoforte lo 0,35%, Londra invece cede uno 0,34%. Ricordiamo che questa mattina il primo ministro greco ha dato il via al rimpasto di governo e che al ministro delle finanze è arrivato Venizelos, a cui a questo punto è affidato tutto il pacchetto di tagli e di privatizzazioni di cui la Grecia non può fare a meno per ottenere gli aiuti. Bene, molto bene Milano rispetto alle altre piazze del vecchio continente. Il FTSE MIB guadagna uno 0,94%, il FTSE All Share lo 0,86%, questo grazie in modo particolare al comparto bancario. Oggi tutti i titoli bancari vanno bene, anche Monte Paschi nell'ultima ora è riuscita a recuperare le perdite di inizio seduta, e questo grazie al rally appunto innescato da ricoperture nel giorno delle scadenze tecniche. Ricordiamo che oggi è il giorno delle tre streghe, scadenze tecniche di future su indici, azioni e opzioni. Per quanto però riguarda in particolare la Banca Popolare di Milano, qui ci sono delle indiscrezioni di stampa che parlano di una imminente offerta da parte di BNP Paribas, più 8,17% per il titolo della Banca Popolare di Milano, che è arrivato anche a guadagnare il 10%. Fondiaria 6 guadagna il 4,18%, il Banco Popolare il 3,65%, Intesa San Paolo il 3,33%, Unicredit 3 punti percentuali, Mediobanca il 2,5%, UbiBanca il 2,34%, Monte dei Paschi l'1,84%. In fondo al listino il peggior titolo è Ansaldo, che cede 3 punti percentuali, giù Exor meno 2,56%, Fiat Industrial meno 2,53%, Fiat l'1,92%, TOZ cede l'1,77%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,42,46 sul dollaro, e qui chiudiamo la nostra breve parentesi dedicata ai mercati e affrontiamo non senza qualche paura da parte mia questo tema dell'IRAP, che è un tema che appunto mi inquieta un po', mi impressiona un po', perché è davvero molto molto complesso, ma io sono supportata da colleghi e ospiti che come al solito mi aiuteranno e ci aiuteranno a rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande e perplessità. In studio con me il collega del Sole 24 Ore Giovanni Parente, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Al telefono invece collegati con noi Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore e tra l'altro uno degli autori di questa guida che trovate in edicola oggi ma anche sul sito, e poi vi diremo come, e poi Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali del CNA. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Buongiorno. E allora 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di partire la nostra scheda. Pago o non pago l'IRAP? Una domanda che in questi giorni si sta ponendo una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti. In particolare medici, avvocati, commercialisti, ma anche piccoli coltivatori diretti o tassisti in dubbio se versare o meno l'imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta infatti di tutte le categorie a cui di volta in volta le sentenze della Cassazione stanno riconoscendo il diritto di non pagare l'imposta se non hanno i requisiti richiesti. Il tempo a disposizione per stabilire come comportarsi non è molto. Entro il 6 luglio infatti bisognerà versare il tributo dovuto per il 2010. In particolare l'IRAP va versata da tutte le società commerciali, da imprenditori individuali e lavoratori autonomi che sono dotati di un'organizzazione autonoma che consente loro di produrre ricavi o compensi superiori a quello che sarebbe stato prodotto da solo titolare. Una volta stabilito di dover pagare i contribuenti soggetti all'imposta, devono determinare l'IRAP dovuta per l'esercizio 2010 e versare il relativo importo alla regione o provincia autonoma nella quale è stato realizzato il valore della produzione. Il calcolo della tassazione si effettua infatti applicando alla base imponibile l'aliquota IRAP della regione di appartenenza del soggetto produttivo. Atto 00024 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, subito diamo una informazione proprio di servizio. Abbiamo detto oggi il Sole 24 Ore è in edicola con la guida sul cartaceo, però la stessa guida in più con contenuti speciali la trovate anche al costo di 4 euro sul sito del Sole 24 Ore, giusto? Esattamente, Giovanni. All'indirizzo www.ilsole24ore.com/IRAP. Naturalmente potrete anche inviare i vostri quesiti fino alle 18 di oggi, quesiti a cui troverete in parte le risposte sul quotidiano di domani e in parte sul sito internet nei prossimi giorni. Quindi affrettatevi se avete dei quesiti da presentare, da formulare, perché così potrete avere risposta sia appunto domani sul quotidiano, almeno in parte domani sul quotidiano, e poi nei prossimi giorni sul sito del Sole 24 Ore nella sezione dedicata proprio all'IRAP. Allora, diciamo subito, questa è un'imposta, l'imposta regionale sulle attività produttive, un'imposta locale, si applica alle attività esercitate in ciascuna regione, poi ciascuna regione ha anche facoltà di aumentare l'aliquota a seconda delle proprie necessità, quindi non è uguale per tutto il territorio nazionale. Che cosa è successo quest'anno di, come dire, abbastanza dirompente per far sì che ci sia oltre 1 milione di persone che non sa se deve pagare oppure no? Sono avvenuti dei fatti, chiamiamoli così, a ottobre, delle sentenze della Cassazione che hanno inciso su quelli che sono i criteri per coloro che devono presentare, che devono pagare questa imposta. Giovanni, tra l'altro per alcuni tipi di soggetti, perché diciamo altri devono pagare e basta, non ci sono possibilità di fraintendimento. Assolutamente, le società ad esempio devono pagare. E i problemi nascono sugli imprenditori autonomi, vale a dire su io ho una piccola impresa, non ho una struttura organizzata e in questi casi la Cassazione ha riconosciuto il diritto all'esenzione dall'IRAP su una scia di interpretazione che aveva riguardato anche ad esempio i professionisti. Sono entrati dentro, tanto per intenderci, tassisti, coltivatori diretti e profilatura delle categorie a cui la Cassazione sta riconoscendo l'esenzione crea molti dubbi se devo pagare o meno, soprattutto adesso visto che è alle porte il primo versamento d'acconto entro il 6 luglio. Che naturalmente riguarda i soggetti per cui si applicano gli studi di settore. E per questo, insomma, in qualche modo la guida cerca di individuare quali possono essere i segnali di esenzione, le tre spie per cui ci si possa ritenere esenti, vale a dire l'organizzazione, l'utilizzo di beni nell'attività di impresa e l'avere dei dipendenti tutto sommato in pianta stabile, ecco. Certo, per la propria attività. Allora, diciamo però che anche volendo individuare questi elementi ci sono dei casi in cui il soggetto si può trovare in difficoltà. Allora cominciamo a fare degli esempi pratici per capire un po' di che cosa stiamo parlando. E il primo di questi esempi lo giro proprio a Valcarenghi, anche perché so che anche lui si sta adoperando per rispondere a quelli che sono i quesiti che arrivano sul forum del sito del Sole 24 Ore. In questo caso parliamo di un medico e sappiamo, mi diceva prima Giovanni, che i medici, la categoria dei medici è molto interessata da questi nuovi criteri per chi paga e chi non paga. Allora, sono un medico, non ho lo studio professionale, non ho dipendenti, presto collaborazione professionale medica presso una struttura privata. Cosa devo fare? Pago o non pago? Valcarenghi. Eccomi qua. Allora, il problema dei medici è stato tra l'altro uno dei fattori trainanti anche per le categorie professionali analizzato dalla Cassazione. Diciamo che in linea di principio il medico è proprio una di quelle figure che solitamente non è dotata né di particolari beni strumentali, quindi di cui si avvale per lo svolgimento della professione, né di solito di dipendenti, e quindi è una delle classiche ipotesi in cui possiamo stare fuori dall'IRAP, possiamo stare con cuore tranquillo e quindi non pagare il tributo. Nel quesito però, nella casistica particolare, sì, si ipotizza una collaborazione con una struttura che potrebbe essere, esatto, un centro medico, potrebbe essere una clinica, potrebbe essere insomma un luogo in cui ci sono dipendenti o comunque collaboratori e strutture, attrezzature che non sono però di proprietà del medico ma sono di proprietà di terzi. Qui abbiamo già individuato un'area di confine, o meglio possiamo introdurre un concetto per dire che non è rilevante solo ciò di cui si dispone in modo diretto, quindi in proprietà. Posso essere tenuto a pagare l'IRAP anche se i beni o i dipendenti non sono direttamente i miei, ma sono di terzi soggetti che li danno in utilizzo, consentono a me la possibilità di utilizzarli. Quindi per chiudere si potrebbe dire che quel medico non paga l'IRAP se quegli strumenti, quei dipendenti della struttura, sì, non possono essere da lui organizzati, quindi non è lui che decide che cosa deve fare il dipendente della struttura o come vada utilizzato un particolare macchinario o una particolare attrezzatura. Se viceversa il medico, quando si reca nella struttura, ha la massima facoltà di decidere come e quando utilizzare la struttura stessa, allora purtroppo deve pagare l'IRAP. Allora, abbiamo già un ascoltatore in linea, Filippo da Milano, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Il dubbio che mi è posto da anni, io faccio da 15 anni l'agente di commercio e ogni anno pago l'IRAP a Milano, e adesso mi viene il dubbio se quest'anno dobbiamo pagarlo o meno. La domanda è questa: dobbiamo pagare noi agenti di commercio autonomi che siamo da soli a lavorare, non avendo collaboratori? Certo, tra l'altro lei dice per sicurezza lei paga, perché con queste cose non si scherza, è meglio come dire, avere poi, dormire sonni tranquilli. Allora, io girerei ancora una volta questa domanda a Valcarenghi, poi dopo dobbiamo andare in pausa. Nel caso dell'agente di commercio possiamo dare una soluzione abbastanza tranciante all'ascoltatore. L'agente di commercio che abbia solitamente un automezzo con cui si sposta, magari un piccolo ufficio, un computer, non deve pagare l'IRAP, può quindi non pagare l'IRAP per quest'anno, potrà pensare anche con il suo consulente se magari sia il caso, c'è anche questa possibilità di richiedere anche in restituzione l'IRAP che ha pagato negli anni passati e che dalla situazione illustrata non è dovuta. Attenzione però che se avesse un collaboratore familiare o un soggetto che lo aiuta, lo coadiuva nello svolgimento dell'attività, la soluzione cambia e il tributo è dovuto. Però mi sembrava che l'ascoltatore Filippo avesse detto che non aveva nessun dipendente, nessun collaboratore, quindi niente IRAP. E speriamo di essere stati d'aiuto anche a De Fisio, che ci ha scritto al 349-238-6666, anche lui un agente di commercio. Andiamo subito all'ascoltatore Alvaro da Fiuggi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno signorina. Ci dica. Senta, pronto? Sì, sì, ci dica, l'ascoltiamo. Allora, io ho un quesito da porre inerente l'IRAP per i medici di medicina generale convenzionati col servizio sanitario. Perché c'è una sentenza della Corte che li esonera dall'IRAP, tuttavia molti colleghi per motivi organizzativi hanno in studio una segretaria e ovviamente una donna delle pulizie. Dato che questi dipendenti non concorrono nel produrre il reddito, il quid pluris, quel reddito in più che è presupposto dell'IRAP, come possono regolarsi questi colleghi circa il pagamento del tributo? Allora, cerchiamo di rispondere anche al signor Alvaro, anche se precedentemente con Giovanni stavamo dicendo forse anche qui la discrimine è proprio dell'organizzazione. Assolutamente sì, è chiaro che bisogna vedere come è strutturato il lavoro all'interno dello studio. E quando in qualche modo contribuisce ad arricchire i proventi, diciamo, in senso insomma, chiaramente l'IRAP è dovuta. Ecco, questo caso sembra uno di quelli borderline su cui si crea chiaramente molta confusione, e, perché come diceva il nostro ascoltatore non c'è quel contributo a quel quid pluris, cioè quel di più. Che, sì. Che serve, insomma, anche Giovanni Valcarenghi credo che su questo, insomma, possa darci anche un suo chiarimento, vero? Sì, anche se glielo chiedo molto brevemente, perché poi vorrei subito passare al dottor Carpentieri, perché ho un paio di domande molto veloci da fare anche a lui. Valcarenghi, su questa vicenda del signor Alvaro da Fiuggi. Allora, un flash velocissimo. Quando c'è il dipendente, che sia attività di segreteria, sì, o anche attività di pulizia, io personalmente consiglierei cautela, pagherei l'IRAP e individuerei invece la possibilità di fare l'istanza di rimborso, perché le sentenze della Cassazione che sono state citate, è verissimo che ci sono, ce n'è più di una, ma non prendevano mai in considerazione il caso dell'esistenza del dipendente. Quindi un pizzico di cautela in questo caso per Alvaro da Fiuggi. Allora, invece al dottor Carpentieri intanto giro un SMS che è arrivato al 349-238-6666. Sono un artigiano con negozio dove lavoro solo io, e lui dice, questo signore che ci scrive da Bergamo e si chiama Roberto, non devo l'IRAP, almeno credo. Il problema qui è la struttura, no? Dipende l'entità e l'importanza della struttura rispetto al contributo fattivo dell'imprenditore, perché dipende se è commerciante, se è artigiano, se anche qui proporrei, come la tecnica di pagare l'IRAP e fare istanza di rimborso. Ecco, però a questo punto si apre poi tutto un problema ulteriore che comunque volevo affrontare con lei, però prima le vorrei chiedere anche questo. Visto che sono intervenute queste sentenze della Cassazione, visto che l'IRAP è comunque un'imposta per diversi motivi piuttosto controversa e anche molto complessa, non è necessario a questo punto forse fermarsi, farci una riflessione sopra, renderla più, non so, più semplice, più chiara, più diretta, anche perché ci troviamo in un momento economico molto particolare? Assolutamente, assolutamente, ma questo è uno dei punti che ce ne ha insieme ad altre confederazioni, che comprese in Rete Imprese Italia, abbiamo fatto da subito. Cioè, quello che emergeva dalla nuova sentenza, che estendeva al settore imprese individuali, la possibilità di non pagare IRAP, creava molti più problemi di individuare i soggetti che non sviluppavano quell'autonoma organizzazione necessaria per diventare soggetti al tributo, no? Perché se un professionista capire se ha sviluppato o meno autonoma organizzazione, sì, è relativamente più semplice, perché ovviamente tutto il lavoro intellettuale o artistico è rivolto a lui. Se non ha dipendenti e ha solo il minimo di struttura necessaria per svolgere la propria attività professionale, è più immediato dire che non svolge l'IRAP. Da quando proprio delle sentenze dell'ottobre del 2010, sì, hanno esteso questa possibilità alle imprese, e si sono incrementati i casi di borderline, primo, sì, e cosa più importante, l'Agenzia delle Entrate non ha mai riconosciuto questa estensione. Cioè, da una parte abbiamo l'Agenzia delle Entrate che ha dato delle direttive anche ai propri uffici riguardo all'attività professionale senza autonoma organizzazione, no? Nel 2008, e poi ha esteso questa possibilità agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, e stiamo parlando del maggio del 2010. Sì. Però non ha mai fatto l'ulteriore passaggio fatto già dalla Cassazione, dire: ah, guarda che anche le imprese possono non avere autonoma, sì, organizzazione. Ecco perché io all'ascoltatore di prima, anche se sarei convinto che non deve pagare l'IRAP, sì, ho consigliato questo, perché al 90% dei casi potrebbe avere una rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate non hanno avuto direttive riguardo a un'impresa individuale. Certo. Questo è il punto. Quindi, primo, servirebbe una circolare dell'Agenzia delle Entrate che riconoscesse l'evoluzione giurisprudenziale, sì, e questo già l'abbiamo fatto con una lettera mandata proprio al direttore Befera. Ma nelle more dell'Agenzia delle Entrate secondo noi serve comunque una norma che ponga fine a questo stillicidio di dubbio, ma che faccio? Faccio rimborso e pago e faccio rimborso? Certo. Oppure non presento la dichiarazione, oppure riduco l'impatto delle sanzioni, faccio la dichiarazione, non verso e mi aspetto l'avviso bonario su cui faccio ricorso, cioè basta, bisogna fare chiarezza. Allora, tra l'altro, appunto, come le dicevo, vorrei poi affrontare anche il tema dei rimborsi, anche se velocemente, però dato che abbiamo due ascoltatori in attesa, mi sembra giusto dar loro la precedenza. Enzo da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono un agente di commercio, ne avete già parlato, una parte l'ho sentita, una parte no, però oltre ad avere l'agenzia come persona fisica, ho un'agenzia come società in accomandita semplice. La domanda è: come società in accomandita semplice, come agenzia, devo pagare l'IRAP o no? Allora, Valcarenghi, vogliamo rispondere anche a questo ascoltatore? Certamente, è una risposta flash negativa, purtroppo, che l'IRAP va pagata nel caso di società commerciali, quindi la SAS, nonostante faccia lo stesso mestiere rispetto, sì, alla ditta individuale, è un soggetto ritenuto sempre assoggettato ad IRAP. Francesco da Venezia, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Volevo appunto chiedere un'informazione lì agli esperti in studio. Domanda semplice: io sono un autotrasportatore, ditta individuale, senza nessun dipendente, nessun collaboratore familiare. È l'unica mia proprietà e il mezzo che guido ogni giorno. Ecco, appunto volevo chiedere se anch'io sono esente o no da pagare l'IRAP. Giovanni, penso che possiamo questo rispondere. Questo è uno dei casi in cui la Cassazione ha riconosciuto l'esenzione. Quindi, ci auguriamo che almeno su questo non ci siano dubbi e perplessità. Speriamo che il signor Francesco appunto possa confidare pienamente in questa sentenza e poi non ritrovarsi invece messo con le spalle al muro da diverse interpretazioni. Nel frattempo, molto brevemente, vi do un aggiornamento su quanto sta succedendo nell'incontro, nel vertice tra la Merkel e Sarkozy, tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Sarkozy, in merito alla crisi della Grecia. Germania e Francia vedono con favore la cosiddetta iniziativa di Vienna per risolvere la crisi di Atene. È una buona premessa, ha detto la cancelliera durante la conferenza stampa a Berlino con il presidente francese Nicolas Sarkozy, e quindi un accordo su base volontaria dei soggetti che hanno titoli di Stato di Atene. Torniamo a noi invece, sono le 12.44, molto velocemente però volevo chiedere appunto a Claudio Carpentieri di introdurre questo tema dei rimborsi, perché mi diceva prima Giovanni che dal 2005 a oggi ci sono 1 milione di rimborsi che valgono circa 2 miliardi di euro. Che succede quando qualcuno si rende conto che forse non doveva pagare? Come fa e che cosa si deve aspettare? Ecco, la prima cosa è deve fare istanza di rimborso e ha termine 48 mesi dalla data di versamento del tributo che ritiene non dovuto, in questo caso l'IRAP, e deve aspettare la risposta dall'Agenzia delle Entrate oppure il silenzio, che diventa dissenso in questo caso. Ha maturato questo silenzio dissenso oppure diciamo ha la risposta negativa, ha 10 anni di tempo per fare ricorso verso il silenzio dell'Agenzia delle Entrate rispetto al rimborso. Quindi la procedura è comunque onerosa e anche molto lunga. Certo, no? Comunque ce la mettono tutta per metterci i bastoni tra le ruote, perché in questo caso uno si aspetta il silenzio assenso e invece diventa silenzio dissenso. Quindi. E allora, Carpentieri, stavamo parlando proprio dei rimborsi e lei giustamente faceva notare che si tratta di una procedura piuttosto lunga, anche abbastanza onerosa. Abbiamo cercato di aiutare i nostri associati mandando un'istanza di rimborso IVA alle nostre sedi, motivata con tutti i passaggi della Cassazione avvenuti in questi anni. Le Cassazioni sono ormai più di 200, e vanno caso per caso. La nostra difficoltà è anche l'impossibilità di dare dei principi generali, no, oltre a quelli minimi che sono stati comunque giustamente e correttamente espressi in questa trasmissione, cioè l'assenza dei dipendenti e il minimo di attrezzatura utile necessaria per svolgere l'attività. sulle professioni è facile, sulle imprese che sono i nostri associati è molto più difficile. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa? No, Valeria, volevo ricordare che sulla nostra guida online www.ilsole24ore.com/IRAP nei contenuti extra c'è proprio una guida alla compilazione della richiesta di rimborso passo dopo passo con il facsimile scaricabile e anche una guida alla compilazione dell'eventuale ricorso in commissione tributaria. Quindi i soggetti interessati possono sia sapere come chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate, sia poi come fare il ricorso in sede giudiziaria. Allora, a proposito di rimborsi, ma anche della scelta di non pagare, ci scrive un ascoltatore chiedendoci di parlare anche dell'onere della prova nella scelta di non pagare e nel rimborso. Questo è il signor Francesco che ci ha scritto al 349-238-6666. Cosa possiamo dire a proposito proprio dell'onere della prova? Carpentieri, mi rivolgo di nuovo a lei, ma poi chiederò anche a Valcarenghi. Quando io faccio rimborso, l'onere della prova ricade su chi chiede il rimborso. Certo. E quindi è il contribuente che deve dimostrare e provare che in quel caso suo particolare non ha autonoma organizzazione, non l'ha sviluppata. Mm-mm. Quando invece uno decide di non presentare la dichiarazione IRAP oppure successivamente di non pagare, sì, avendola presentata, l'onere ricade sull'Agenzia delle Entrate perché deve dimostrare che in quel caso lui l'aveva sviluppata l'autonoma organizzazione. Quindi non pagando c'è un'inversione dell'onere della prova, no? Perché certo, se io pago e poi chiedo il rimborso, devo dimostrare il motivo per cui chiedo il rimborso. Sì. Nell'altro caso è l'Agenzia delle Entrate che deve dimostrare che in quel caso l'IRAP era dovuta in quanto lui, nel suo caso specifico, aveva sviluppato l'autonoma organizzazione. Valcarenghi, dobbiamo aggiungere qualcosa o è chiaro così? Il discorso mi sembra chiarissimo, posso aggiungere sì, questo per correlare con la dichiarazione questo discorso dell'onere della prova. Sì. Faccio tre casi. Primo caso, abbiamo la certezza di non dover pagare l'IRAP, mi sembra che il consiglio giusto sia niente dichiarazione, non si compili la dichiarazione, è tutto molto più semplice. Il secondo caso, abbiamo invece il dubbio sul fatto che l'IRAP sia dovuto o meno, mi sembra, anche se è brutto ma tecnicamente più corretto, fare la dichiarazione, andare in istanza di rimborso con onere della prova, cioè io che chiedo la restituzione del tributo devo dimostrare di non essere soggetto all'IRAP. Il terzo caso è quello più spiacevole, ma invece più gradito al fisco, sono soggetto passivo all'IRAP, quindi compilo la dichiarazione, pago il tributo, perché non pagandolo mi espongo ovviamente alle sanzioni dell'amministrazione. Certo, e qui abbiamo in qualche modo chiarito anche questo concetto, questo passaggio della dichiarazione, chi si ritiene escluso dal pagamento dell'IRAP deve compilare o meno la dichiarazione comune senza poi effettuare i relativi pagamenti che ne scaturiscono oppure non compilare la dichiarazione. Mi sembra che Giovanni Valcarenghi sia stato molto chiaro nel dire è meglio non compilarla, così tanto se non devo pagare non mi espongo ulteriormente. Norberto da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie a nome di tutti per le informazioni che date. La mia figura è quella di agente di commercio, è l'unica struttura che possegue l'automobile, però la mia attività viene svolta all'interno di un'azienda con la figura di responsabile di area, quindi vengo pagato provvigioni ma ho un ufficio in uso e coordino delle persone. Mm. A questo punto vorrei sapere come si pone la mia situazione nei confronti dell'IRAP. Allora, signor Norberto, io temo che, visto che lei coordina delle persone, però ovviamente io sono una profana assoluta in questo campo, per cui non mi espongo a dir nulla, quindi chiedo a Valcarenghi invece di esporsi lui in prima persona, perché io temo che il signor Norberto debba pagare. Sì, infatti Valeria si professava non competente in tema di IRAP, invece ha centrato immediatamente il tema della risposta. L'agente di commercio, abbiamo visto esempi di prima, è una classica figura che può non pagare il tributo. Qui però il signor Norberto di Milano utilizza il termine proprio coordino delle persone. Sì. E quindi dovremmo sapere se queste persone da lui coordinate gli consentono, come mi sembra di poter dire, di produrre un maggior ammontare di provvigioni. Cioè, se queste persone lui le coordina e danno un beneficio in termini di rientro di provvigione a lui, credo che l'IRAP sia certamente da pagare. Se invece coordina queste persone ma non a scopo proprio, queste persone lavorano per conto dell'azienda e quindi non gli danno un beneficio diretto, si potrebbe arrivare a dire che invece l'IRAP non è dovuta. Credo che siamo più nella prima ipotesi, presenza di personale non mio dipendente ma che comunque coordino e utilizzo io, quindi devo pagare certo. il tributo. Comunque le sfumature sono veramente tantissime e ci si rende conto, più si va avanti, più si affronta meglio il tema, che è veramente difficile capire quando sì e quando no. Giro a Claudio Carpentieri un SMS di un ascoltatore che dice: sono un libero professionista, un ingegnere titolare di studio di ingegneria senza dipendenti né collaboratori. Alla luce delle ultime sentenze, sono tenuto al pagamento dell'IRAP? Questo è un classico esempio proprio che rende facile la risposta: non deve pagare IRAP. Meno male. Ci sono tantissime sentenze della Cassazione proprio su ingegneri. Meno male che in questo caso siamo, come dire, così riusciti a dare una risposta secca all'ascoltatore, in modo da chiarire qualsiasi dubbio. E invece mi incuriosiva un altro SMS di una SAS, una società in accomandita semplice, proprietaria di 10 appartamenti che vengono affittati sapendo che però non si ha nessun dipendente. Questa società deve pagare l'IRAP, Carpentieri? Sì, in quanto società deve pagare l'IRAP, perché la società ha proprio a scopo un'attività economica organizzata, l'organizzazione di cui si deve dotare la società commerciale, comunque deve pagare l'IRAP. Quindi possiamo dire che sulle società i dubbi non ci non sono. Ce ne sono. Dobbiamo ribadirlo questo con molta chiarezza: sulle società dubbi non ce n'è, bisogna pagare. Il tempo a nostra disposizione è proprio al limite. Io chiedo a Giovanni Parente però di ricordare ancora una volta che sul sito del Sole 24 Ore è presente la guida online. Assolutamente, www.ilsole24ore.com/IRAP. La guida è acquistabile anche nei prossimi giorni al costo di 4 euro. Ricordiamo che ci sono dei contenuti speciali dentro, come prima tu dicevi giustamente, ci sono anche i facsimile degli eventuali rimborsi che uno vuole chiedere, e quindi la guida per compilare. Non solo, anche la guida alla compilazione del modello IRAP e alla dichiarazione dei redditi, perché c'è la possibilità di scalare quanto versato negli anni passati. Perfetto, io ringrazio quindi i nostri ospiti: Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali del CNA, per essere stati con noi. Ovviamente un grazie al collega del Sole 24 Ore Giovanni Parente per essere stato con me in studio. Sono le 12:55, Salvadanaio termina qui, il prossimo appuntamento è per lunedì.